Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. In arrivo 2.700 miliardi contro la crisi dall'Europa, così Ursula von der Leyen. Abbiamo cambiato passo, siamo vicini all'Italia. Anche la Francia accoglie l'idea del MES con meno condizionalità. E tanto i casi di coronavirus al mondo si avvicinano al milione. Trump annuncia tempi orribili in America. In Spagna si contano già 300.000 disoccupati. In Italia il governo proroga la chiusura fino al 13 aprile, sale a 10.000 il numero dei sanitari contagiati, 69 medici morti dall'inizio dell'epidemia. INPS già accolte 500.000 domande, il sito regge anche se è stato nuovamente attaccato da hacker, dice il ministro del lavoro Catalfo. Lettera appello sul Sole 24 Ore di 150 professori universitari. Bene la chiusura, adesso occorre pensare alla ripartenza seguendo il modello della Corea del Sud. E buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo con il conteggio dei casi di coronavirus nel mondo, è stato quasi raggiunto il numero di 1 milione di persone. In Spagna 950 vittime solo nelle ultime 24 ore, preoccupa anche la crescita negli Stati Uniti e preoccupa anche, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne parleremo più avanti, il mancato monitoraggio degli asintomatici, persone che hanno contratto il virus senza sintomi e che potrebbero essere loro stessi ulteriori veicoli del contagio. In Italia il governo ha rinnovato le misure di contenimento, come sapete lo ha annunciato ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, fino ad almeno il 13 aprile, mentre novità in vista ci sono anche sul fronte degli aiuti europei, ma cominciamo dall'Italia. Tutti a casa fino a Pasquetta con le attuali restrizioni prorogate con decreto dal 4 al 13 aprile e solo dopo si ragionerà su possibili riaperture graduali. Nessun allentamento dunque alla stretta anticoronavirus, anche perché, come ha detto ieri sera Conte, si rischia di vanificare gli sforzi fatti finora. L'unica vera novità riguarda gli atleti professionisti che non potranno allenarsi all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Quanto alle passeggiate, non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio con i bambini, dice Conte, ma oggi il sottosegretario all'interno Crimi spiega che l'attività motoria necessaria intorno a casa resta sempre consentita e la circolare del Viminale ha chiarito che è compresa anche quella con i bambini. Poca chiarezza però, secondo molti, o diamo a tutti lo stesso messaggio, commenta l'assessore al welfare della regione Lombardia Gallera, o il cittadino si sente disorientato e allenta la tensione. Altra polemica, quella sulle mascherine. Da Roma stiamo ricevendo solo briciole, lamenta il governatore lombardo Fontana, e tutto questo mentre si allunga la lista dei medici deceduti per coronavirus, 69, mentre gli operatori sanitari contagiati sono ormai oltre 10.000. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E intanto arriva anche una lettera dei sindaci di centrosinistra di alcune città lombarde alla regione, una lettera che di fatto chiedendo conto di alcune mancanze per quanto riguarda la protezione dei medici, degli infermieri nelle case di cura, di fatto però dicevamo apre un nuovo versante di polemica tra le istituzioni. Sentiamo. La protesta dei sindaci di centrosinistra contro la giunta regionale lombarda si materializza in un appello che corre sui social. I cittadini non vogliono polemiche, ma soluzioni corrette per questa drammatica situazione. Così scrivono i primi cittadini di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese. I sindaci pongono il tema delle risorse ai comuni per non tagliare i servizi e sollecitano Regione Lombardia e Governo ad un chiarimento sulla linea da seguire. Inoltre chiedono trasparenza sulla situazione drammatica nelle case di riposo, sui dispositivi impiegati, sull'uso delle mascherine e sulla necessità di interventi efficaci nell'utilizzo dei tamponi. Sono temi fondamentali in tempo di coronavirus. Il rischio di una strumentalizzazione politica è sempre dietro l'angolo. Il governatore Fontana e l'assessore Gallera rivendicano la condivisione quotidiana delle strategie con gli stessi sindaci, ma qualcosa nei rapporti tra istituzioni locali è andato storto. Tutto accade nelle settimane dei ripetuti appelli del capo dello Stato Mattarella all'unità e della tentata tregua tra opposizione e governo. Il tanto auspicato dialogo è molto facile da annunciare in pubblico, ma come si vede risulta poi complicato da mettere in pratica, esattamente come il bene comune. Questa è l'analisi di Daniele Biacchessi. Allarghiamo lo sguardo al mondo, quasi 1 milione i casi di coronavirus in tutto il pianeta. In tutto il mondo i casi di Covid-19 sono quasi 1 milione, con oltre 47.000 vittime finora a livello globale, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti sono ad oggi il paese più colpito, con un bilancio complessivo di oltre 215.000 casi e più di 5.000 morti. Ma il presidente Trump dice che i prossimi giorni saranno orribili e ci si prepara al peggio. In Europa sono più di 500.000 i casi di coronavirus confermati e nella classifica globale dietro gli Stati Uniti ci sono l'Italia, che per ora ha il più alto numero di vittime, oltre 13.000, e la Spagna con circa 10.000 decessi. In Germania balzo di contagi, secondo il maggior centro epidemiologico tedesco, le infezioni sono cresciute di oltre 6.000 casi in 24 ore e i decessi sono oltre 900. In Francia sono già oltre 4.000 le vittime, mentre nel Regno Unito sono oltre 2.300, ma il bilancio potrebbe essere superiore. Nelle Filippine, dove circa la metà degli oltre 110 milioni di abitanti attualmente in quarantena, il presidente Duterte ha ordinato le forze di sicurezza di sparare a morte a chiunque causi problemi nelle aree chiuse a causa del coronavirus. Registrato infine in Brasile il primo caso di Covid-19 in una comunità indigena dell'Amazzonia. Si tratta di una ragazza di 20 anni della tribù dei Cocama. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora siamo alla pagina dedicata all'economia e agli attesi aiuti economici che dovrebbero arrivare dall'Europa, tutti i paesi in prima linea contro il coronavirus, Italia inclusa. Ieri sera il Presidente del Consiglio Conte ha detto che di fronte a una modifica del MES, il Fondo Salva Stati, una modifica che potrebbe eliminare le condizioni, le condizionalità negative per questi paesi, ecco, l'Italia sarebbe disponibile. Oggi aperture importanti arrivano anche dalla Commissione europea, dalla sua presidente Ursula von der Leyen. Il fondo da 100 miliardi per finanziare la cassa integrazione nei paesi più colpiti dal coronavirus è la prima risposta comune dell'Europa alla crisi. Ad affermarlo è il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, che parla di un primo passo storico e si dice fiducioso sul fatto che altri ne seguiranno. A dirsi ottimista è anche Ursula von der Leyen. Oggi l'Europa si mobilita al fianco dell'Italia, ma va riconosciuto che nei primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta comune, in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa propria, scrive in una lettera a Repubblica la Presidente della Commissione europea, la quale assicura che ora l'Europa ha cambiato passo e sottolinea che ad oggi le istituzioni europee e gli Stati membri hanno mobilitato 2.770 miliardi di euro, la più ampia risposta finanziaria ad una crisi europea mai data nella storia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dopo i problemi di ieri, il sito dell'INPS ha ripreso a funzionare oggi per i professionisti a partire dalle 16 e anche per i privati. Ha già accolto 500.000 domande, adesso continua a funzionare, ha detto il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, ricordando che stanotte c'è stato un nuovo attacco di hacker molto importante, ma il sito è riuscito comunque a rimanere in piedi. E intanto, in arrivo probabilmente col Consiglio dei Ministri di domani, ci sono nuove misure a sostegno delle imprese. Un accesso più agevole ai finanziamenti delle banche, con la garanzia dello Stato per liberare oltre 500 miliardi di euro per l'economia reale. Così il governo punta a garantire liquidità alle imprese in sofferenza per il blocco produttivo che ogni settimana, secondo Confindustria, costa lo 0,75% del PIL. Stiamo preparando un apposito decreto, spero di riuscire a portarlo già in Consiglio dei Ministri venerdì, ha dichiarato il Premier Giuseppe Conte. Perché nessuna azienda deve chiudere o andare in fallimento, le parole del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. L'obiettivo è alzare il livello delle garanzie al 90% per complessivi 200 miliardi di euro per tutte le aziende, anche le grandi, sfruttando l'ammorbidimento dei vincoli europei sugli aiuti di Stato. Verranno potenziati il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l'intervento di cassa depositi e prestiti. Tra le ipotesi, la sospensione di sugar e plastic tax che dovrebbero scattare a luglio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È un'altra delle numerose declinazioni dell'emergenza coronavirus, anche dal punto di vista economico, riguarda l'agricoltura. Stanno iniziando in questi giorni i raccolti, diversi nuovi raccolti, ma il problema che le aziende agricole devono superare è quello della forza lavoro. Mancano braccianti e quelli che ci sono e che vivono in condizioni di illegalità nelle tendopoli del mezzogiorno non possono chiaramente spostarsi e quindi non possono lavorare. Le fragole e gli asparagi rischiano di rimanere a terra, non ci sono i braccianti per raccoglierle e nei supermercati a breve gli scaffali potrebbero essere vuoti. Sono lavori che venivano svolti per lo più da braccianti agricoli stranieri, circa 2.500 sparsi negli 8 insediamenti in Puglia, un migliaio in Calabria. Finita la stagione degli agrumi, i migranti si spostano di solito verso nord per la raccolta delle pesche, albicocche, mele, pomodori, asparagi, fragole, ma ora sono bloccati, fermati e rimandati indietro se non hanno un contratto. Molti di loro però hanno il permesso di soggiorno. Servono almeno 200.000 persone, dice il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Le baracche ghetto dei braccianti vanno sanate, i lavoratori regolarizzati, ha detto il ministro del lavoro Bellanova. Così è stato fatto in Portogallo. Intanto ieri e l'altro ieri ci sono state forti tensioni nella piana di Gioia Tauro, nella tendopoli di San Ferdinando e negli altri insediamenti informali, create dal l'impossibilità di lavorare e quindi di mangiare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altre notizie di cronaca: tragedia sfiorata nei pressi della spiaggia di Fontanamare a Gonnesa, nel Sulcis, in Sardegna. Un ponte alto 6 metri è crollato mentre transitava un compattatore dei rifiuti. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30 di oggi. Illesi, fortunatamente, il conducente, il passeggero del compattatore. È morto invece all'ospedale Sant'Orsola di Bologna un detenuto positivo al Covid-19. È la prima vittima tra i reclusi. A quanto si apprende da fonti penitenziarie, l'uomo si trovava agli arresti domiciliari proprio presso l'ospedale. Con la proroga intanto di altre 2 settimane di misure restrittive si raggiungeranno le 5 settimane complessive di chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale. Come si pensa di chiudere l'anno scolastico? Sentiamo. Chiusura dell'anno scolastico, valutazione dei ragazzi ed esame di maturità e terza media. Sono le questioni aperte alle quali è chiamato a dare risposta il Consiglio dei Ministri di domani con un provvedimento sulla scuola ancora in fase di elaborazione. Impossibile sapere ora se si tornerà in classe prima della fine dell'anno, escluso comunque un prolungamento a luglio e agosto. Quanto alle ammissioni, probabile la promozione nonostante i debiti, ma con una stagione di recuperi e verifiche all'inizio del nuovo anno. Per il 500.000 di maturandi si lavora a 2 scenari, solo colloquio oppure 3 prove facilitate con il secondo scritto scelto dalla commissione. Commissione interna con presidente esterno. Per l'esame di terza media, nel caso non si rientri in classe, si fa strada all'idea dell'esame a distanza. Consegna di una tesina con la possibilità o meno di discuterla in sede oppure online. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il punto su cui si concentrano le speranze di tutti, farmaci e vaccino naturalmente. In questi giorni è partito in Toscana e in Emilia-Romagna l'impiego della clorochina e di altri antivirali, mentre il Veneto sta iniziando a sperimentare l'uso di una terapia a base di plasma di pazienti guariti. A livello europeo anche l'Agenzia del Farmaco sta valutando tutte le possibili cure contro il Covid. Non ci sarebbero ancora prove ufficiali di efficacia, ma l'Agenzia Europea del Farmaco sta valutando 40 farmaci utilizzabili come terapia per il Covid-19. In corso di sperimentazione, tra gli altri, ci sono 2 antimalarici, 2 antivirali usati contro l'HIV, un antivirale sviluppato per Ebola, un farmaco per la sclerosi multipla ed un antireumatico. L'EMA è anche in contatto con gli sviluppatori di una 12 di potenziali vaccini, 2 dei quali hanno già iniziato la prima fase di sperimentazione condotta su volontari sani. Tuttavia, è per ora difficile prevedere quando saranno pronti. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili e dell'esperienza passata, si stima che potrebbe essere necessario almeno un anno prima che un vaccino contro Covid-19 sia pronto per l'approvazione e disponibile in quantità sufficienti per consentire un uso diffuso. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:15 minuti, effetto giorno, fa un break. Torniamo tra poco con tutte le altre notizie. I vostri commenti al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Ripartiamo dalla lettera appello di 150 professori universitari che dicono: bene la chiusura sin qua, ma da adesso bisogna cominciare a pensare alla ripartenza e occorre farlo guardando al modello della Corea del Sud. Tra poco vi spieghiamo il perché. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. I casi di coronavirus nel mondo si avvicinano al milione. Trump annuncia tempi orribili in America. In Spagna si contano già 300.000 disoccupati. Gli aiuti europei in arrivo, 2.700 miliardi, annuncia Ursula von der Leyen. Abbiamo cambiato passo, siamo vicini all'Italia. Anche la Francia accoglie l'idea del MES con meno condizionalità, borse positive. In Italia il governo proroga la chiusura fino al 13 aprile, sale a 10.000 intanto il numero dei sanitari contagiati dall'inizio dell'epidemia. Lettera appello sul Sole 24 Ore di 150 professori universitari. Bene la chiusura, ma adesso occorre pensare alla ripartenza seguendo il modello della Corea del Sud. Eccoci qua, 13:18 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Avete appena sentito i titoli principali delle notizie di oggi. Dunque, come annunciato, vi vogliamo parlare di questa lettera appello da parte di 150 professori universitari che parla della questione della ripartenza. Con noi Giampio Bracchi, presidente emerito della Fondazione Politecnico di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Bracchi, nella vostra lettera si toccano diversi punti. Il titolo che ha scelto il Sole 24 Ore è: bene chiudere, ma dobbiamo subito preparare la ripartenza con il modello Corea. Prima di tutto, leggo da questa lettera, l'importante è mettere l'attenzione su una questione. Bisogna superare anche un po' la paura, cominciare a pensare al dopo, lasciare forse ai medici, chi è in prima linea, la gestione dell'emergenza sanitaria e cominciare a concentrare le energie mentali anche delle altre menti a disposizione, delle altre professionalità come le vostre, per esempio, a come ripartire, alla strategia. E questo, diciamo, un primo passo da fare, cioè uscire dal circolo che immobilizza, quello della paura. Certamente, anche perché il contagio, come tutti sanno, sta rallentando e arriverà presto il momento in cui ci sarà una discesa, in cui quindi una seconda fase, che è quella di una graduale, prudente riapertura, diventa non solo possibile ma anche necessaria, perché da un lato dobbiamo garantire la salute dei nostri cittadini di tutte le età, ma dall'altro lato dobbiamo anche evitare di far collassare il nostro sistema produttivo ed economico. Non possiamo distruggere 70 anni di lavoro che abbiamo fatto per diventare la seconda realtà manifatturiera del nostro continente. Ecco, quanto sono gravi i danni all'economia, professor Bracchi? Perché effettivamente abbiamo sentito varie stime. Confindustria ha stimato un calo fino al 10% del PIL nei primi due trimestri dell'anno. E ci sono altre indicazioni, ma insomma sempre di cali di questo genere stiamo parlando. Però conoscendo così anche il settore economico produttivo delle professioni in Italia, che idea si sta facendo di quanto sono profondi proprio questi danni? E evidentemente un paese che ogni anno ha un PIL di oltre 1,6 trilioni di euro, ogni settimana di fermo delle attività sia produttiva che commerciale che di servizi, provoca un danno facilmente valutabile. Siamo vicini all'1% del PIL ogni settimana, siamo oltre una decina di miliardi alla settimana. Ma non ci deve preoccupare solo questo, ci deve preoccupare il fatto che il sistema sia poi in grado di ripartire quando ce ne saranno le condizioni. E evidentemente l'approfondimento della crisi con la durata del fermo rende poi più difficile una normale ripartenza, anche perché le realtà più fragili economiche, pensiamo soprattutto al sistema del commercio, dei servizi e del mercato interno, soffre enormemente e molti non saranno più in grado di ripartire. C'è bisogno quindi di una graduale riapertura e nel frattempo occorre che le misure economiche che sono state annunciate diventano realtà. Cioè, insomma, noi non possiamo essere morti quando saremo guariti, dobbiamo essere vivi e pronti. È un dovere che abbiamo non solo verso le realtà presenti, è un dovere che abbiamo verso il futuro, perché dobbiamo assicurare che anche la generazione nuova abbia una economia in grado di sopravvivere e soprattutto di svilupparsi. Quindi garantire la salute, ma anche riuscire, certo, a ripartire vivi e non morti. Personalmente anch'io nel balance tra la questione sanitaria e la questione economica, io personalmente come sensibilità credo come tutti sulla carta, naturalmente si cerca di privilegiare soprattutto l'aspetto della vita delle persone, l'aspetto della salute, l'aspetto sanitario, però voi dite occorre anche sapere allo stesso tempo che ogni settimana di blocco ha delle conseguenze economiche. Ripartire oltre un certo limite sarà difficile per molte attività. L'economia è vitale perché serve alle persone per sopravvivere, magari non tanto quanto le cure in questo momento servono per chi è malato di Covid, ma comunque sono altrettanto molto importanti per sopravvivere, per portare avanti la vita di tutti noi con lo stipendio a fine mese e poter portare avanti la propria vita. E quindi questo è importante saperlo. Poi, professore, voi dite ripartire seguendo un modello preciso. E voi tutti, 150, diciamo, professori universitari, sposate in qualche modo il modello Corea del Sud. Perché? Che cosa è accaduto e sta accadendo in quel paese che, secondo voi, anche l'Italia dovrebbe tenere a mente? La Corea si prende ad esempio sia perché ha avuto successo nel ripartire senza chiudere troppo lungo, ma dall'altro lato perché è un paese che non è molto diverso dall'Italia per struttura, diciamo, demografia, per aspetti relativi all'ordinamento politico e sociale, sì, per struttura industriale. E nella Corea ciò che è stato importante è stata la capacità di usare interventi massicci e tecnologie per tenere sotto controllo la situazione, quindi tamponi a tutti, misure degli anticorpi, avendo la possibilità di farlo, e anche delle tecnologie, in particolare queste app di cui tanto si parla, per riuscire a tracciare le persone che sono in corso nelle infezioni, e anche per tracciare con banche dati coloro con cui sono venuti a contatto e poi isolare i positivi non a casa dove infettano anche gli altri familiari, ma in strutture di accoglienza e poi una buona struttura ospedaliera per l'emergenza. Ricordiamoci che la Corea ha più letti di terapia intensiva di quanto abbia la stessa Germania. Quindi è un esempio di come, sì, con misure organizzative e con intervento con tecnologie si è riusciti a contenere lo sviluppo dell'epidemia, tanto che la Corea, che era il secondo paese dopo la Cina per numero di infetti, adesso oggi ha un numero di infetti largamente inferiore anche alla maggior parte dei paesi europei. Quindi sì, si dimostra che la si può fare, però ci vogliono azioni concrete, strutture e tecnologie. Un esempio, il nostro ministro nel settore pubblico ha annunciato la creazione di una commissione di oltre 70 persone che studierà le app per riuscire a gestire in qualche modo con la tecnologia dove sono gli infetti che hanno contattato. Ecco, sarebbe stato bello che avesse annunciato non una commissione di 70 persone per studiare, ma l'individuazione di 70 imprese italiane, perché ci sono, che sono in grado di costruire queste app e di realizzare le banche dati. Cioè dobbiamo anche avere la capacità di essere operativi per la fase 2, non di discutere solamente. Va bene, grazie professor Giampio Bracchi, grazie per essere stato con noi, presidente emerito della Fondazione Politecnico di Milano, uno dei firmatari di questo appello che trovate oggi anche sul Sole 24 Ore, su come le prime indicazioni su come provare a ripartire. Ripartire ma anche sopravvivere è il tema quotidiano di tutte le famiglie italiane in questi giorni, in queste settimane. Sopravvivere per esempio in casa, sopravvivere con figli. Ebbene, c'è un noto personaggio molto amato che adesso viene a dare una mano. Sentiamo. Per intrattenere i bambini a casa i genitori fanno magie, ma a volte ci vuole un mago vero, cioè Harry Potter. La mamma di Harry Potter, J.K. Rowling, ha lanciato infatti un portale, Harry Potter at Home, che vuole essere anche uno strumento educativo a disposizione di insegnanti e genitori. Articoli, video, puzzle, tutorial. In collaborazione con Audible c'è anche, gratis, l'audiolibro del primo volume della saga, in più lingue, anche l'italiano. Benvenuto nell'incantevole villaggio di Baddeley Babberton. Harry, presumo che a questo punto tu ti stia chiedendo perché ti ho portato qui. Dico bene? Signore, dopo tutti questi anni mi adeguo e basta. Il maghetto però vince anche in TV. La maratona dei film in prima serata ogni lunedì e martedì su Italia 1 continua con ascolti record. Martedì Harry Potter e il principe mezzosangue ha vinto la sfida dell'Auditel con quasi il 16% di share. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Minuti, eccoci qua cari ascoltatori, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie di effetto giorno. 349-238-6666 per i vostri messaggi e per commentare le notizie di oggi, c'è anche la pagina Facebook di effetto giorno. Tenteremo un collegamento con la Cina perché l'OMS ieri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto di essere preoccupata per i nuovi focolai in Cina. La Cina che ha cominciato a tracciare anche gli asintomatici, che sarebbero una quota importante, e di tutto il contagio, fino a un terzo dei contagiati, e soprattutto persone anche guarite che, ahimè, sono tornate a essere positive al tampone, tra il 5 e il 15% dei malati in Cina, e quindi diciamo si annuncia una coda lunga dell'epidemia, e quindi cercheremo di ripartire da questo tra poco, dopo la pubblicità, la borsa, e torniamo tra un attimo. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. In arrivo 2700 miliardi dall'Europa. La Ursula von der Leyen dice: abbiamo cambiato passo, siamo vicini all'Italia. Anche la Francia accoglie l'idea di un MES con meno condizionalità. Come avete sentito, borse positive. Intanto i casi di coronavirus nel mondo si avvicinano al milione, Trump annuncia tempi orribili, in America e in Spagna si contano già 300.000 disoccupati. In Italia il governo proroga le misure fino al 13 aprile, sale intanto a 10.000 il numero dei medici e degli infermieri contagiati dall'inizio dell'epidemia. INPS già accolte 500.000 domande, il sito regge anche se è stato nuovamente attaccato dagli hacker, dice il ministro del lavoro Catalfo. Lettera appello sul Sole 24 Ore di 150 professori universitari. Bene la chiusura, adesso però occorre pensare alla ripartenza. Minuti, di nuovo buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con effetto giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666 e anche sulla pagina Facebook o sul sito di Radio 24, la pagina dedicata a effetto giorno, se preferite. Molti commenti all'intervista del professor Bracchi del Politecnico di Milano, uno dei firmatari della lettera appello che invita a ripartire. Intendiamoci, non dicono che bisogna fregarsene dell'emergenza sanitaria. Dicono che bisogna cominciare a pensare, ad organizzare la ripartenza. Infatti ci sono reazioni scettiche, come chi dice: sono un docente universitario, non mi associo alla lettera di questi che definisce non colleghi. Marco scrive così: poveretti, noi non ci vogliamo ammalare perché da morti non potremmo godere di economie forti. E questo è un punto di vista. Molti altri invece scrivono che invece viva il modello coreano, sottoscrivo, avanti tutta. Meno male che qualcuno comincia a proporre un minimo di realismo e non solo l'ipocrisia, eccetera eccetera. Quindi insomma, chiaramente questo di ripartire è un tema che divide e dividerà. Ognuno poi ha le sue sensibilità, i suoi punti di ricaduta in questo equilibrio tra emergenza sanitaria ed emergenza economica. È ovvio, non sfugge a nessuno che le vite vengono prima di tutto, però bisogna anche essere consapevoli che ogni settimana che passa per molte persone vuol dire non arrivare alla fine del mese e avere vere difficoltà a sopravvivere. Questo è un elemento da tenere in considerazione. Poi naturalmente appunto, il punto di ricaduta probabilmente per ognuno di noi è diverso, e poi sarà la politica a dover fare una difficile sintesi, ma prima o poi occorrerà comunque tentare di uscire da questa condizione. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Con il MES, il fondo salva stati al centro di scontri al calor bianco tra Italia ed Europa, finirà come con la TAV e sarà un bene. Il premier Conte, che aveva espresso più volte un niente invalicabile sullo strumento, ha precisato che se il MES cambia le regole di ingaggio e toglie la cosiddetta condizionalità, se ne potrà parlare. È un negoziato, è la politica, è normale. E gli stessi 5 Stelle e gli oppositori di Lega e Fratelli d'Italia alla fine se ne faranno una ragione. Gli stessi dirigenti del MES, ad esempio, anche parte dell'opinione pubblica tedesca, convergono su questa posizione negoziale. Ora il Fondo Salva Stati e anche la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, sono le due centrali che possono emettere da subito titoli europei coperti da garanzia comune e finalizzati a investimenti sul piano di rilancio per il dopo virus. Il MES ha una dote di 410 miliardi, la BEI ha una capitalizzazione di oltre 240 e ha 600 miliardi di prestiti attivi, nonché un giro d'affari annuo tra i 60 e i 70 miliardi. La BEI del resto ha già messo in campo un piano anticrisi da 40 miliardi proprio per i paesi europei. Non è improbabile che vengano messe in campo entrambe per dare vita a una nuova fase di finanza europea solidale, senza regole capestro per pochi reprobi come accadeva in passato. Sarebbe un segnale molto importante, una vera fase 2 che per l'Europa, a dire il vero, sarebbe un nuovo anno zero. È con noi il corrispondente da Pechino della radio televisione svizzera, Gabriele Battaglia. Ciao Gabriele, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ben ritrovato Gabriele. Allora, ieri il premier cinese, con una dichiarazione che a me ha colpito personalmente, ha chiesto di non insabbiare i dati a livello locale per far sparire l'epidemia, no? Ha detto dobbiamo tracciarli tutti. La Cina ha iniziato a tracciare anche gli asintomatici e sempre ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che di essere preoccupata per i nuovi possibili focolai proprio in Cina. Gabriele, come sta cambiando? A che punto è l'epidemia in Cina, come viene affrontata dalle autorità cinesi in queste ore? Sì, in questo momento la grande preoccupazione, proprio come dicevi, quella dei casi asintomatici, perché questa epidemia di coronavirus ormai si è capito che rispetto alla SARS del 2003 funziona un po' al contrario, diciamo così, cioè si diventa molto infettivi prima di dare luogo, prima di rivelare dei sintomi forti. E quindi adesso si cerca di capire quante persone ci siano in giro che sono asintomatiche, anche perché nei 1000 metodi di calcolo che vediamo adesso a livello internazionale, la Cina finora non ha mai inserito tra i casi confermati di coronavirus i cosiddetti asintomatici, cioè coloro che risultano positivi al test e però invece non hanno sintomi particolari. E chiaramente qui a questo punto i numeri cambieranno, ma il problema è quanto cambieranno. Da lì l'appello del premier Li Keqiang, perché il fatto è che le stesse autorità centrali cinesi non sanno quali sono i dati che gli arrivano poi dall'esterno. delle autorità locali. Gabriele, purtroppo non sentiamo molto bene la linea telefonica, c'è un problema sicuramente nel collegamento, per cui ti faccio un'altra domanda, ti chiedo di rispondere cercando di scandire bene le parole e poi vediamo se riusciamo ad udirti in maniera corretta. Come si sta però anche cercando di ripartire nella vita quotidiana di ognuno di voi in Cina, lontano da Wuhan per esempio, tu sei a Pechino, ma anche per quello che ne sai proprio nella regione epicentro dell'epidemia a Wuhan e Lubei? Le fabbriche, le attività economiche principali stanno ripartendo, si è tornato quasi al, diciamo che siamo intorno all'80-85% delle attività economiche che sono ripartite. Chiaramente ci vorrà un grande piano di investimenti perché ci sono alcuni settori che sono fortemente penalizzati, non solo i bei settori ma anche alcune fasce più deboli della popolazione come i lavoratori migranti per esempio, e quindi adesso stanno cercando di capire quale piano fare, un piano che non può essere più come quello fatto nel 2008 durante la crisi finanziaria globale, che si incentrò soprattutto sulle costruzioni e sulle infrastrutture. Adesso devono privilegiare altri settori che sono quelli ad alto valore aggiunto. Bene, grazie Gabriele Battaglia da Pechino, grazie per essere stato con noi. Adesso invece vi proponiamo di tornare in Italia e di riguardare per un momento ai dati che quotidianamente vengono forniti dal commissario Borrelli, capo della Protezione Civile, e anche dagli esperti del Istituto Superiore di Sanità, cioè quelle curve, la curva dei decessi in Italia, la curva dei contagi. Cerchiamo di capire quali sono i numeri veri e lo facciamo insieme al presidente della provincia di Brescia e sindaco di Manerbio, Samuele Alghisi. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Con lei naturalmente parleremo della sua realtà, della realtà del bresciano. Però noi possiamo già dire, lo abbiamo capito, che oltre a queste due curve, immaginiamo la campana del numero di purtroppo di vittime e la campana della curva che descrive invece l'andamento dei contagi, che sopra ce ne possano essere altre, almeno altre due più alte come numero, come quantità di casi, i sintomatici non trattati, le persone che si trovano a casa ma che non hanno ricevuto il tampone ma che con tutta probabilità hanno il Covid, e lo dicono ormai in tantissimi, quelli nelle case di cure per esempio, e anche le persone che risultano a sindaci come lei rientrare nel novero delle vittime molto probabilmente da Covid ma non censite dai dati ufficiali del Covid. E poi un'altra curva ancora più sopra, che è quella degli asintomatici, che secondo varie stime degli epidemiologi si può moltiplicare per 3, per 4, per 5, forse addirittura fino a 10, dicono gli esperti dell'Imperial College. E quindi questo, diciamo, ci darebbe poi la misura ampia dei numero di contagiati nel nostro paese. Alghisi, intanto lì a Brescia, voi che numeri avete raccolto per quanto riguarda i dati, la contabilità macabra dell'anagrafe che però avete fatto? Sì, allora qui i dati vengono quotidianamente attraverso anche il centro della prefettura, vengono dati giornalmente a tutti coloro che sono i componenti. Ieri avevamo un dato leggermente in discesa, ma contava comunque nell'ordine del 70-80 unità, comunque l'aumento di successi della giornata arrivando a circa 1500. Sindaco, le chiedo di scandire un po' meglio la voce anche a lei, perché oggi abbiamo dei problemi, si vede, con le linee telefoniche, quindi se riesce a scandire lentamente tirando fuori anche un po' di voce, grazie. No, dicevo, i dati arrivano giornalmente, sì. Ieri eravamo quasi a 1500 decessi, dipende dagli ultimi giorni che si mantiene stabile attorno ai 60-70, e però con una curva, diciamo, dei che viene rilevata. Tuttavia rilevo quello che lei ha detto, questi sono dati probabilmente molto parziali per quanto riguarda i positivi, perché tutti gli asintomatici non vengono rilevati. Anche per questo, voi avete visto nei giorni scorsi, alcuni sindaci hanno proposto, insomma hanno fatto un sollecito alla Regione Lombardia perché si può da quei tamponi. Io nei prossimi giorni con alcuni presidenti di provincia usciremo con più o meno la medesima richiesta, magari anche un po' specificata. Lombardia ad esempio non utilizza, ha deciso di non utilizzare i tamponi veloci, quelli che vengono utilizzati anche in Veneto, e ha emesso una nota rispetto a questo, una circolare che è quella del 33, nel quale praticamente si dice che i test rapidi per il centro di anticorpi M non vengono. Sì, no, abbiamo indubbiamente un problema con la linea, Ghisi, e vediamo se nel frattempo riusciamo, non so, a provare a recuperarla. Comunque lei ci stava parlando della questione dei tamponi. Io intanto, mentre cerchiamo di recuperare la linea, le anticipo un'altra domanda, perché c'è stata una polemica, anche lei accennava in parte, da parte di alcuni sindaci di città lombarde di centrosinistra nei confronti della giunta lombarda leghista, e quindi è una polemica che ha ovviamente e inevitabilmente anche un sapore politico, anche se diciamo i sindaci negano questo, in cui si chiede tutta una serie di interventi, dalla protezione dei medici, sanitari, all'attenzione alla questione delle case di cura, proprio al tema della regione. So che c'è un altro tema che tocca molto i sindaci, che è quello dei dismessi dagli ospedali, persone che comunque vanno monitorate, andrebbero tenute in isolamento per un po', perché non possono occupare l'ospedale, perché bisogna fare posto ad altri, però sono ancora contagiosi per un po', vanno monitorati, e voi avete dei problemi anche logistici da questo punto di vista. Le chiedo se avete avuto un sostegno, un aiuto, una risposta su questo tema dalla regione ma anche dal governo, sindaco. Io spero che si senta meglio. Adesso sì. Allora, rispetto a quest'ultimo tema che lei portava, noi sindaci, qui parlo prevalentemente di sindaci perché abbiamo più o meno una situazione uguale un po' in tutta la provincia di Brescia, avremo a breve il tema delle persone guarite che usciranno dagli ospedali e non possono rientrare in famiglia se non prima hanno fatto il doppio tampone. Ci si sta attrezzando comune per comune, anche nel mio comune abbiamo messo a disposizione, o metteremo a disposizione una struttura che era un ex alloggio di suore sostanzialmente per gestire questa cosa, ma è una gestione che in questo momento non è coordinata, viene gestita da ogni singolo sindaco a secondo delle risorse che ha, e questo è un tema che invece andrebbe improntato in modo un po' più energico. Non è una questione, diciamo, di rivalsa politica nei confronti della regione. I temi che noi vogliamo porre come sindaci, io rappresento come presidente della provincia i sindaci, sono temi di ordine pratico. La questione dei tamponi è un problema che non può essere gestito come un problema politico, è un problema pratico che ci deve aiutare a poter gestire questa fase, si spera, un po' di fine. Ma qual è, scusi, la risposta, Ghisi, che vi viene data alla richiesta di fare i tamponi come li sta facendo il Veneto, invece non si fanno in Lombardia, ma guardi, secondo voi invece andrebbero fatti? È stata diramata una circolare proprio ieri da Regione Lombardia, che ritiene di non dover procedere con i tamponi, quelli che rilevano gli IgM e gli IgG, sì, ma soltanto di appoggiarsi agli laboratori accreditati secondo il metodo classico. Secondo me, secondo noi, almeno, e adesso girerà una nota anche di alcuni presidenti di provincia, non è una questione politica, lo ribadisco, questo secondo me è un errore, perché questi test, che in alcune province tra l'altro sono stati acquistati dall'amministrazione provinciale, sì, potrebbero essere d'aiuto per cominciare. Cioè, un li po' avete già pronti ma non li potete fare in alcune zone? Ci sono già ma non si possono fare, sono già stati acquistati ma... La Lombardia non li ritiene, mentre il Veneto li sta utilizzando. Sì, sì, esempio, i test serologici, quelli che sta facendo anche la Toscana, abbiamo sentito stamattina a Radio 24 il presidente della Toscana Rossi spiegare bene a cosa servono. C'è una nota di poco fa dell'assessore al welfare Gallera che dice: i test seriologici in Lombardia li faremo più avanti, non adesso, più avanti. Sì, qua c'è il problema, però, come per i DPI, sì, che io rilevo, cioè, se si va un po' troppo avanti si farà speculazione anche su questo tipo di presidio, e rischiamo o di non averne o di averli a prezzi anche esorbitanti. Quindi forse valeva la pena magari pensare a fare un'attività di prevenzione e cominciare a dotarsene. Chiaro. Alghisi, l'ultima cosa che le voglio chiedere è questa. Lei alla fine che idea si è fatto di quale potrebbe essere, io parlo per il, credo che lei possa parlare per il suo territorio, per la provincia di Brescia, l'entità, insomma, del numero di contagiati, tra sintomatici e asintomatici, complessivamente, avrà letto anche lei le valutazioni dell'Imperial College piuttosto che di altri epidemiologi, lo stesso Burioni ha detto che quel calcolo è affidabile. Lei quanta parte della sua popolazione pensa che possa essersi ammalata? I dati ufficiali con dei positivi a ieri erano 8.367, ma è chiaro che non tengono presente tutta una serie di, secondo me sono almeno due volte tanto, se non di più. Soltanto a Manerbio, le do un dato puntuale, sì, che le posso dare, rispetto ai 7 decessi del marzo dell'anno scorso, ne abbiamo avuto 68 quest'anno dei nostri concittadini, ma rilevati ai fini del coronavirus sono soltanto 30, quindi vuol dire che almeno il doppio della popolazione che in questo momento ha problemi di salute, sia anche con esito funesto, hanno sicuramente una compromissione da coronavirus. Grazie. Prego. No, la ringrazio per essere stato con noi, Samuele Alghisi, presidente della provincia di Brescia, sindaco di Manerbio, grazie. Ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, come sempre, con Giulia Crivelli ed Effetto Mondo.